Des met burin an, et burin jo sa ven, de regula i vac. Burin, na via desti mun, studia i fal pitur. Burin, vede la città, con tuc i solus, con tuc i sofus. I me predei, gagnan ca trentan, e ai engiamo vec. Mam de ver, se va pur in città, due piade la nebbia, due mai in la rabbia, studia, ruine a selco e torna in trema. Impara a fare una vita mola, a bere Coca-Cola, senza aria, senza vento. Trova una quai zona scema, rembambise del tu. Ma deve, via! Ma deve, via! Pur in due dever, va pur in del caso, che me resti che. Torina in alza viaggia, in sulla mia terra. Ma deve, via. Ma deve. Mamma mia.